Secondo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioacchin. Inferno, secondo canto. Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro, e io, sol uno, m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò ch'io vidi, qui si parrà la tua nobiltate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortese i fu, pensando l'alto effetto ch'uscir dovea di lui e il chi e il quale, non pare indegno ad omo d'intelletto, che i fu dell'alma Roma e di suo impero nell'empireo ciel per padre eletto, la quale e il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo usie del successor del maggior Piero. Per questa andata onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo vas d'elezione, per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono. Me è degno a ciò né io né altri il crede. Perché se del venir io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Se, savio, intendi me chi non ragiono. E qual è quei che disvuol ciò che volle, e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle? Tal mi fec'io in quella oscura costa, perché, pensando, consumai la impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. S'io ben la parola tua intesa, rispuose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa, la qual molte fiate l'omo ingombra, sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema a ciò che tu ti solve, dirotti perch'io venni, e quel ch'io intesi nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir, soave e piana, con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio, e non dell'avventura, nella diserta piaggia impedito sì nel cammin che vol te per paura, e temo che non sia già sì smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel ch'io di lui nel cielo udito. Or movi, e con la tua parola ornata, e con ciò ch'a mestieri al suo campare, l'aiuta, sì chi ne sia consolata. I son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar disio, amor mi mosse, che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora, e poi cominciai io. O donna di virtù, sola per cui l'umana spezie eccede ogni contento, di quel ciel ch'a minor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardi. Più non te vuò caprirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion che non ti guardi di lo scender qua giuso, in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che può saper cotanto addentro, dirotti brievemente, mi rispuose, perch'io non temo di venir qua entro. Temersi dei di sole quelle cose ch'hanno potenza di fare altrui male. dell'altre no, che non son paurose. I son fatta da Dio, sua mercè, tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Donna e gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento ov'io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: ora bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nimica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dov'i era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, ch'uscì per te della volgare schiera? Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno, com'io, dopo cotai parole fatte, venni qua giù del mio beato scanno. Fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te e quei ch'udito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto, e venni a te così com'ella volse. Dinanzi a quella fiera ti levai che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque, che è? Perché? Perché ristai? Perché tanta viltà nel core allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che t'hai tre donne benedette, curan di te nella corte del cielo, e il mio parlar tanto ben ti promette? Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poi che il sol l'imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo? Tal mi fec'io di mia virtude stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, ch'i cominciai come persona franca. O pietosa colei che mi soccorse, e te cortese ch'ubbidisti tosto alle vere parole che ti porse. Tu m'hai con desiderio il cor disposto, sì al venir con le parole tue, ch'i son tornato nel primo proposto. Or va, c'un sol volere ad ambedue, tu duca, tu signore, e tu maestro. Così li dissi, e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. Fine del secondo canto dell'Inferno.